Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là delle borse, che comunque si mantengono tutte più che positive, più 1,4% Milano, più 1,8% Parigi, più 2,4% Francoforte, più 1,2% Londra. L'America guadagna quasi 2 punti percentuali. Dicevo, al di là delle borse, parleremo del decreto anticrisi, le modifiche che sono in discussione, anche se appunto, pur con la fiducia, c'è ancora, da quello che si capisce, una trattativa in corso. Parleremo soprattutto poi di racket, di usura, più di usura che di racket, va detto, perché dopo l'allarme lanciato ieri dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, la situazione è oggettivamente per alcuni profili di imprenditori, commercianti, artigiani, si sta facendo pesante, e soprattutto rischiano, o in alcuni casi sono già entrati nella sfera, nel cono d'ombra dell'usura, imprenditori, artigiani e commercianti che prima invece non ci finivano. Ne parleremo fra poco, ma il motivo è molto semplice: il giro d'affari in calo porta a sofferenze nei confronti delle banche, alcune banche chiedono a questi imprenditori di rientrare, e da lì poi l'obbligo a rientrare sui prestiti ottenuti spinge inesorabilmente queste persone per la sopravvivenza. Devo dire, in quello che a cui si assiste è un ricorso al prestito usuraio, non per investimenti futuri, non per mancanza di liquidità su progetti, ma proprio per la gestione ordinaria. Comunque, tra qualche minuto ne parleremo. Intanto i messaggi possono arrivare al 349-238-6666. E la trattativa in corso sul decreto anticrisi riguarda anche alcune norme bancarie, e appunto soprattutto il tetto a quella operazione, a quella regola che alcuni avevano voluto vedere come in sostanza la reintroduzione di una commissione di massimo scoperto dalla finestra dopo che era stata proibita, diciamo, dalla porta. Anche di questo parleremo. Poi Porsche, Volkswagen e il ruolo dei fondi sovrani, e anche la vicenda Mayer, per quello che siamo riusciti a capirne, soprattutto oggi Deborah Rosciani nel suo programma Salvadenaio se ne è occupata ampiamente, e anche questa mattina in Soldi e dintorni. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo anche modo di parlare delle previsioni per l'economia italiana diffuse oggi dall'ISAE. Rapidamente le notizie in breve. Partiamo come sempre dal petrolio, che ha aperto sopra i $65 al barile, quindi continua lenta ma in questo momento inarrestabile il rialzo delle quotazioni del greggio. Sul fronte dell'economia internazionale, il presidente Barack Obama ha lanciato quello che molti hanno definito un guanto di sfida: la grande riforma del sistema sanitario americano arriverà entro il 2009, quella che punta a estendere la protezione sanitaria ai circa 30 milioni di americani che non ne godono. Ed è uno dei motivi, da quello che si è letto, anche del calo della popolarità di Barack Obama, sceso sotto il 60%. Comunque Barack Obama va avanti, ha detto che la riforma della sanità è essenziale per salvare l'economia, e che senza una riforma si rischierebbe di sbancare il bilancio federale. Per pagare questa riforma, e questa è la cosa più interessante, il presidente americano si è detto favorevole ad una nuova tassa sui redditi, sui milionari americani, sui redditi dei più ricchi. La Ford diffonde la trimestrale, un rosso da $638 milioni, pesante, però inferiore alle previsioni. La perdita infatti è pari a 21 centesimi di dollaro operazione, le attese erano più che doppie, 50 centesimi di dollaro operazione. Parleremo, dicevo, della vicenda Porsche. Comunque la Porsche ha annunciato che lancerà un aumento di capitale da almeno 5 miliardi di euro per creare un gruppo integrato con la Volkswagen. Porsche ha circa il 51% della Volkswagen, ma non ha fornito dettagli sui partecipanti all'aumento di capitale. E tra l'altro in questo momento io ricordo che Porsche soffre di un sovraindebitamento pari a circa 10 miliardi di euro. Confermato invece che il nuovo gruppo automobilistico nascerà attraverso una progressiva presa di partecipazioni da parte di Volkswagen in Porsche e la fusione totale di Porsche SE con Volkswagen AG. E ancora il Qatar, questa è una notizia che avete letto in questi giorni, entrerà con il 17% delle opzioni sulle azioni e diventerà così Qatar il terzo azionista di Volkswagen dopo la Porsche, che appunto ha il 50%, e la regione della Bassa Sassonia, che ha il 20% del capitale. Il governo, veniamo all'economia italiana, come dicevamo, ha preannunciato un maxi emendamento al decreto anticrisi, su cui comunque intende porre la fiducia. Il maxi emendamento prevede tra l'altro alcune modifiche, cioè lo stop alla stretta sulle banche, quindi vengono cancellate le novità sul massimo scoperto e sulle modifiche unilaterali dei contratti bancari, ritocchi in vista anche per le misure relative all'autonomia finanziaria della Corte dei Conti, per l'energia, sugli studi di settore, sul patto di stabilità. Ricordo che il decreto anticrisi è quello che prevede lo sconto fiscale del 3% su tutti gli aumenti di capitale sociale delle imprese fino a 500.000 euro, la detassazione di parte degli utili reinvestiti per l'acquisto di macchinari nuovi fino al 50%, e ancora poi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge verrà stipulata la convenzione con l'ABI per la cosiddetta moratoria sui debiti, sulle scadenze dei debiti delle piccole e medie imprese. Poi c'è lo scudo fiscale, la lotta all'evasione, quindi con la Guardia di Finanza che potrà chiedere alla Banca d'Italia, alla Consob e all'ISVAP documenti, dati, informazioni, incrociare i dati, l'aumento dell'età pensionabile per le donne, poi la parte che riguarda colf e badanti, ossia la possibilità di regolarizzare colf e badanti, al massimo una per nucleo familiare, due se c'è una persona con gravi patologie, 500 euro non deducibili per quello che riguarda le banche. Ma attendiamo appunto di capire che cosa uscirà dall'incontro tra il ministro Tremonti e il presidente della Camera Gianfranco Fini. Le banche contestavano il costo, il tetto al costo del servizio, quello in sostanza in cui viene chiesta dalle banche un corrispettivo per la messa a disposizione di fondi. Il decreto aveva fissato un tetto allo 0,5%, che non poteva superare lo 0,5%. L'emendamento però ha reso ancora più dura la norma, perché lo 0,5% andava applicato non solo al rosso concordato, ma anche ad eventuali sconfinamenti, e sembra che questa parte verrà modificata a questo punto, così come dovrebbe essere modificata la parte in cui si prevedeva un tetto del 5% in caso di modifica unilaterale dei contratti. La banca aveva un tetto applicabile solo del 5%, anche questo dovrebbe essere modificato. L'incontro, dicevamo, tra il Presidente della Camera Gianfranco Fini e il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, il nodo è appunto il maxi emendamento alle modifiche. Sentiamo Fini questa mattina, prima dell'incontro, ricordare insomma che cosa andranno a controllare e a valutare. Credo che sia doveroso, ancora prima che saggio, attendere il tempo necessario per verificare se quanto ipotizzato diventerà realtà. Non ho alcuna difficoltà a ribadire ancora una volta che, qualora l'ipotesi divenga reale, la Presidenza della Camera, secondo quello che è il suo preciso dovere, valuterà con il doveroso e attento esame le parti dell'eventuale, l'intero maxi emendamento governativo ed in particolar modo la concordanza o discordanza dell'eventuale maxi emendamento governativo con il testo che è stato approvato dalle commissioni, e come ho detto e confermo, se la Presidenza della Camera riterrà opportuno rivolgersi ai colleghi per esprimere alcune valutazioni in ordine all'iter legislativo, non mancherà di farlo. Ripeto, vedremo, ma da quello che si è capito dovrebbero appunto essere eliminate alcune di queste norme, ripeto, il tetto dello 0,5% e anche il tetto del 5% in caso di modifica unilaterale dei contratti. Oggi, restiamo sempre in tema di economia italiana, rapporto ISAE sulle prospettive economiche del paese, dopo che ormai è da qualche settimana che da diversi soggetti e osservatori si dice la parte peggiore della crisi sta superata, ci sono i segnali, anche se non in maniera univoca, ma segnali di un'economia che cerca di ripartire. E allora l'ISAE pubblica il suo rapporto sulle prospettive dell'economia italiana e ne parliamo con il presidente dell'Istituto di Analisi Economiche, Alberto Maiocchi. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Allora, presidente Maiocchi, anche voi, mi sembra di aver capito, condividete l'analisi che non è solo del ministro Monti, anche del governatore della Banca d'Italia Draghi, del Fondo Monetario, dell'OCSE, che la fase peggiore è stata superata, le stime che avete diffuso. Noi confermiamo queste analisi fatte da parte del governo e di altri istituti anche sulla base delle inchieste che l'ISAE conduce sulla fiducia delle imprese e dei consumatori, che mostrano negli ultimi mesi un cambiamento di tendenza. I primi dati anche per il mese di luglio vanno in questa direzione. Quindi la nostra previsione è che nella seconda metà del 2009 si torni in terreno positivo anche per quanto riguarda il valore della produzione, anche se evidentemente nella media d'anno i valori sono fortemente negativi, e nel 2010, anche sulla base di una ripresa del commercio mondiale e della spinta che proviene dalla domanda dei paesi dell'estremo oriente, si possa avere un primo leggero miglioramento anche dell'andamento del prodotto interno lordo. Sul fronte fiducia, che è diciamo, l'elemento che voi monitorate ogni mese, abbiamo visto dei consumatori, se ben ho capito, che vedono, sono un po' più ottimisti, anche se hanno piena consapevolezza che l'uscita da questa crisi sarà lunga. Esatto, sì. E in particolare l'impressione che si ha da questi dati è, per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, che ha inciso in misura abbastanza positiva l'andamento dell'inflazione, e quindi questo si riflette in un maggiore reddito reale delle famiglie e quindi in una maggiore fiducia per quanto riguarda la propria situazione personale. Rimangono ancora invece i dubbi sulla situazione generale nel contesto in cui si inserisce l'economia italiana. Le stime che avete diffuso mi sembra che tutto sommato siano in linea con quelle con le ultime diffuse dal governo nel corso del DPEF, quindi un brusco calo del nostro PIL quest'anno meno 5,3%. Esatto. Era da decenni che non si vedeva una cosa del genere, però poi un accenno da prefisso telefonico, però insomma un accenno di ripresa nel 2010 dello 0,2%. Sì, 0,2% corretto per i giorni lavorativi, 0,3%. No, come dato grezzo, è un segnale positivo, e appunto io credo che dalla discussione anche che si è avuta oggi in occasione della presentazione del rapporto, quello che rimane dubbio è la velocità della ripresa. Oggi ormai si usa nel dibattito questa serie di lettere, se sarà L, se sarà U, se sarà V, se sarà W. La nostra impressione è che sarà comunque una ripresa lenta, e l'ipotesi di un andamento altalenante della ripresa è un'ipotesi abbastanza plausibile. Probabilmente nella seconda metà del 2009 probabilmente si è arrestato il ciclo di decumulo delle scorte, e quindi abbiamo un rimbalzo tecnico abbastanza significativo nei prossimi mesi. Se questo si attenuerà, la ripresa invece dell'attività produttiva legata a crescita della domanda sarà comunque molto lenta, perché ci sono i fenomeni internazionali che incidono in misura significativa. Per esempio, occorre vedere cosa avverrà negli Stati Uniti per cercare di abbattere la montagna di debito che si è abbattuta sulla pubblica amministrazione per sostenere l'economia americana. Un'ultima domanda, la disoccupazione, perché ieri il CNEL ha detto da 300.000 fino a 500.000 di disoccupati in più, e il dato chiaramente è la disoccupazione è il vero punto interrogativo, esatto, dei prossimi mesi, visto che ormai sulla parte finanziaria e borsistica più o meno la direzione si è capita. Una parte economica mi sembra che anche qui più o meno nel 2010 un accenno di ripresa dovrebbe esservi. La grossa domanda è quanto terrà l'occupazione, le vostre stime? Dunque, le nostre stime sono sul lato inferiore rispetto ai tanti che hanno presentato al CNEL ieri, nel senso che noi la nostra stima è che si raggiungeranno i 300.000 unità in meno di posti di lavoro. E la considerazione, l'osservazione che noi abbiamo fatto è che è stato diverso il comportamento delle imprese italiane in questa recessione, che è stata gravissima, rispetto a episodi analoghi del passato, nel senso che si è lavorato molto di più sul monte ore lavorate piuttosto che sul numero dei posti di lavoro. Le imprese hanno fatto largo ricorso alla cassa integrazione guadagni, al part time. Questo ha consentito di far fronte a una fortissima caduta della domanda, mantenendo o cercando di ridurre, di minimizzare la perdita di occupazione. E l'ipotesi che noi facciamo di 300.000 nuovi posti di lavoro in meno è legata alle ipotesi reali che facciamo rispetto all'andamento dell'economia nei prossimi mesi, cioè che ci sia una ripresa della domanda internazionale e che il settore, la manifattura, che è risentito in maggior misura della caduta della domanda mondiale, possa riprendere nell'autunno. Per la precisione, voi avete anche notato che è aumentata la pressione fiscale nel 2009, ma dovrebbe scendere nel 2010? Sì, come mai? Ma qui l'andamento della pressione fiscale viene misurato in termini di rapporto, quindi una forte caduta del PIL, anche se c'è una tenuta una certa tenuta delle entrate, una forte caduta del PIL provoca evidentemente un aumento netto della pressione fiscale. Quindi quello che noi pensiamo è che questo si attenuerà, perché passiamo da una caduta del 5,2-5,3% del PIL a un più 0,2-0,3 nel 2010. Quindi io ho l'impressione che questo sia un fenomeno, il rapporto fra il prelievo fiscale e il prodotto interno lordo sia fortemente influenzato dall'andamento del denominatore, cioè del prodotto. Quindi chiaro, non c'è stata, è la percentuale sul PIL, chiaro, calando il denominatore aumenta la percentuale, non è un aumento chiaramente della tassazione per aliquote. Grazie al presidente dell'ISAE Alberto Maiocchi. Dalla situazione congiunturale, era importante vedere come anche l'ISAE su fronte fiducia ma anche andamento ormai sono tutti in linea gli istituti, e questo dovrebbe, insomma, confortarci, perché almeno è difficile che le previsioni si discostino di molto. Passiamo invece a una situazione più contingente, cioè in attesa che poi l'economia dia qualche segnale di ripresa. Quello che sta crescendo, o uno degli elementi che stanno crescendo, si chiama usura. L'allarme arriva dallo stesso governatore della Banca d'Italia e ieri lo abbiamo raccontato nel corso dell'audizione alla Commissione parlamentare antimafia. Sentiamo Draghi. Fra gli ostacoli che in varie e in vaste aree del paese frenano il tasso di crescita, vi sono organizzazioni criminali aggressive, pervasive, opprimenti. L'azione di contrasto della criminalità organizzata, l'oggetto principale del lavoro di questa commissione, mi pare oggi più importante che mai. C'è un altro aspetto per cui la crisi economica assume rilevanza nelle questioni di cui oggi ci occupiamo. Durante la crisi le imprese vedono inaridirsi i flussi di cassa, vedono cadere il valore di mercato del proprio patrimonio. Entrambi i fenomeni rendono le imprese più facilmente aggredibili da parte della criminalità organizzata. Anzitutto, ma non solo, attraverso l'esercizio dell'usura nelle sue diverse configurazioni. Durante la crisi, dunque, l'azione di contrasto deve farsi ancora più attenta e decisa. Gli ultimi casi, 20 luglio del 2009, si suicida a Milano un tabaccaio nello scantinato del suo locale, travolto dai debiti, ha scritto una lettera alla moglie, una all'avvocato, una ad un carabiniere suo conoscente, indicando nomi e cognomi degli presunti strozzini o principali creditori. Tra l'altro è il titolare di una SRL del Bresciano e ha scritto: ho dato degli assegni a, la persona non è nota chiaramente, che ha rovinato la mia vita e quella della mia famiglia. Ma a chi pensa che l'usura, o per chi pensa che l'usura riguardi solo casi limite, faccio notare quello che ha scoperto la polizia a Bari proprio ieri. Tassi usurari a chi non poteva fare nemmeno la spesa in macelleria, a chi non era in grado di acquistare scarpe griffate per la propria figliola. Insomma, gli agenti della squadra mobile di Bari hanno arrestato 7 persone, lo avete letto. I tassi usurai andavano tra il 60 e il 500% all'anno. E anche qui, perché uno dice, ma che faccia avrà lo strozzino? No? Non so, immagina. Brutto, sporco e cattivo, no, era un ausiliario del reparto di ginecologia del Policlinico di Bari, il suo socio era un dipendente dello stesso ospedale. Un clan a conduzione familiare che dichiarava redditi da 1000 euro al mese, però stranamente possedeva 6 appartamenti, una tenuta con villa padronale, con piscina, altri 6 appartamenti annessi, 2 ville al mare, insomma 7 milioni di euro di reddito, di patrimonio stimato, per chi guadagna 1000 euro al mese, non male, quanto a capacità di risparmio. Le vittime, insomma, le vittime dovevano addirittura cifre bassissime, 3000 euro, e hanno avuto in cambio i negozi saccheggiati, minacce familiari, vivono adesso sotto stato di protezione. E poi, come avrete forse anche letto, la polizia ha sequestrato anche il contratto degli usurai, non possiamo raccontarvelo, ma un contratto pazzesco con le rate, in cui c'era scritto: mi ha dato comarca 1000-10.000 euro perché deve sposare Mimmo, dobbiamo raccogliere sino al 1° maggio 7.500 euro, poi dare il resto. Giacomo non deve dare, tutto un linguaggio così a codice su piccoli prestiti, ma il risultato è sempre uguale: vittime minacciate anche fisicamente, danneggiate nelle loro proprietà. Dai casi singoli ai dati aggregati, Confesercenti stima che nel 2008, quindi quest'anno andrà anche peggio, 15.000 imprese hanno chiuso perché sovraindebitate e strozzate dagli usurai. I primi dati del 2009 confermano anche l'allargarsi di questa tendenza. L'Associazione dei Contribuenti Italiani, che con lo sportello antiusura controlla il fenomeno del sovraindebitamento, parla di 1.662.000 famiglie e 1.200.000 piccole imprese a rischio in Italia. Il sovraindebitamento delle famiglie nei primi 6 mesi del 2009 è cresciuto, anche questi dati sono dell'Associazione dei Contribuenti Italiani, dell'81%, l'usura sarebbe aumentata del 66,8%. Infine, la Camera di Commercio Artigiana di Mestre ha stilato anche una classifica regionale del rischio usura rispetto ha un indicatore medio nazionale stabilito in una cifra pari a 100. Il tasso di usura rilevato in Campania è del 173, cioè il 73% più alto. In Calabria è a 161, un 61% in più appunto. In Puglia è del 44% più alto rispetto alla media nazionale. In Sicilia è del 43%. Presidente Lino Busà, presidente di SOS Impresa, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, difficile parlare di usura perché arriviamo a un tema molto delicato. Mettiamola così: di solito chi si rivolgeva a voi perché strozzato dagli strozzini aveva un profilo, insomma, lo sappiamo tutti, già delle volte borderline, c'erano imprese, piccoli commercianti, artigiani, frutti vendoli alimentaristi che già vivevano in difficoltà e quindi erano già a rischio. Vorrei capire se si è invece allargato purtroppo il fenomeno a un'altra platea e se le telefonate al giorno sono aumentate, intanto quante ne avete? Sì, sicuramente le telefonate, direi le richieste di aiuto sono sicuramente aumentate. Noi ne riceviamo 4-5 al giorno, chiaramente le telefonate sono di più perché ci sono persone che chiamano più volte e non si rivolgono soltanto appunto imprese marginali, fruttivendoli, alimentaristi, negozi di mobili, fra quelli che subivano già da tempo la crisi anche per l'andamento del mercato, ma anche imprese commerciali, artigiani, di servizi di media grandezza. Abbiamo ricevuto proprio in questi giorni una telefonata di un'impresa metalmeccanica di Latina che aveva oltre 20 dipendenti, famosissimo negozio, una galleria d'arte di Roma, ma anche imprese artigiane del settore tessile, della metalmeccanica, diciamo da varie parti d'Italia. Questo a testimoniare che l'usura incomincia ad aggredire strati di imprenditori fino a qualche tempo fa non colpiti dal fenomeno. Devo dire, so che riguarda di meno, ma anche impiegati e famiglie che prima mai si sarebbero, avremmo mai pensato di trovare ai nostri sportelli. Allora, il tema, lo dico a chi sta scrivendo, è molto delicato, il numero resta sempre 349-238-6666, non scambiate noi proprio lo sportello SOS Imprese, poi daremo anche i numeri, anzi diamo subito il numero, Presidente, a cui rivolgersi nel caso qualcuno... Ma noi abbiamo un numero verde, 800-900-767. 800-900-767. Per segnalare casi di usura. La cosa importante, voglio dire, l'usura c'è sempre stata, purtroppo va combattuta, ma sappiamo che ha sempre colpito alcune fasce. Da quello che sto capendo, mentre prima riguardava attività piccole, soprattutto attività piccole, con delle volte, come ha scoperto anche la polizia a Bari, somme modeste, 2.000 euro, 3.000 euro, 1.000 euro, di persone che proprio non ce la facevano arrivare a fine mese e non riuscivano a trovare nessun interlocutore negli sportelli bancari, adesso sta capitando, come ha segnalato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, quindi non siamo noi ad averci con le banche, una cosa un po' diversa, cioè interi soggetti e profili che prima non avevano bisogno di rivolgersi agli struzzini perché comunque per il profilo, per le dimensioni riuscivano ad avere una controparte bancaria, non ce l'hanno più. E dopo le informazioni meteo e la pubblicità le chiederei ai presenti di raccontarci il meccanismo, altrimenti sembra solo teoria, e anche queste vengono spinte verso contratti di usura, quindi dal 60 al 500% di interessi. ...17:36, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. I messaggi stanno arrivando al 349-238-6666, il tema è l'usura, poi arriveremo ai mercati finanziari, vi anticipo che la borsa ha mantenuto il suo rialzo, 1,5% a Milano, 2 punti percentuali a Parigi, 2,5 a Francoforte. Usura e attenzione ai luoghi comuni e anche alle frasi fatte. Perché lo dico? Perché alcuni scrivono, vabbè, ma gli usurati sono vittime di loro stessi, devono imparare a stare nei propri limiti, la parola non è esattamente quella. Se uno fa il passo più lungo della gamba, scrivono altri ascoltatori, poi non deve lamentarsi. Altri ancora scrivono, le banche non sono istituti di beneficenza, e su questo siamo d'accordissimo. E altri ancora dicono, ma attenzione, ma non si capisce com'è che da un lato le dichiarazioni dei redditi di certe categorie siano bassissime, dall'altro però siano condotte, spinte verso l'usura. Allora, e poi c'è chi scrive con un po' di ironia, e noi apprezziamo, la banca non mi dà i soldi, 70.000 euro per un negozio, mi sapete segnalare un buon usuraio. Apprezziamo l'ironia anche su un tema come questo. Presidente Busà, allora, visto che c'è chi dice, beh, attenzione qui, insomma, cioè qui non fa, chi fa il passo più lungo della gamba poi non si deve lamentare, possiamo raccontare la dinamica che spinge i nuovi soggetti che lei ha individuato, quindi non solo famiglie, piccolissimi esercizi commerciali, ma anche artigiani di grosse dimensioni, piccoli imprenditori, nelle mani o verso il cono d'ombra dell'usura? Sì, cioè il punto critico è quello che io chiamo l'emergenza finanziaria, cioè evitare di entrare nel blacklist, di avere dei crediti incentivi o peggio di essere protestati. Per un imprenditore grande e piccolo, trovarsi in questa situazione significa la morte civile dell'impresa. E quindi, di fronte a questa situazione, nel momento in cui si è in sofferenza, si ha difficoltà a movimentare il conto corrente, anche se si è patrimonializzati, anche se si debbono incassare dei crediti, e la banca però ti chiede il rientro, e a volte abbiamo visto attraverso telegrammi in 48 ore, in una settimana, è chiaro che fai di tutto tutto per evitare appunto di entrare in queste blacklist, e quindi ti guardi intorno. Non dimentichiamoci che l'usura è un reato sommerso, ma gli usurai in qualche modo sono delle persone pubbliche, sono note nell'ambiente, perché si sa nel giro dei piccoli commercianti, delle imprese, chi è che è disponibile a prestare soldi. E quindi l'usura è diventata un'azione sbagliata, ma diciamo accettabile, anche per soggetti ed imprese che fino a qualche tempo fa appunto non avrebbero mai pensato di trovarsi in questo. Mi faccia capire, Presidente Bugia. Allora, io sono un'impresa che prima, per vari motivi, non aveva mai avuto bisogno, mai rischiato di finire nelle mani dell'usuraio. Non ho bisogno di soldi per investimenti futuri, perché insomma quello è già qualcosa di opinabile. Dice, vabbè, rimanda l'investimento piuttosto che finire in mano dell'usura. Allora, che cosa mi capita nei casi che voi vedete? Ma passo, guardi, per passo. Abbiamo segnalato vari tipi di casi. Uno, per esempio, assolutamente emblematico, una persona che aveva due conti affidati per tutte e due 50.000 euro da due banche diverse, che nel frattempo si sono fuse, i due conti sono diventati uno solo, l'affidamento è rimasto 50.000 euro e dovuto rientrare immediatamente degli altri 50.000 euro, per fare un esempio molto concreto. Sì, ma in generale cosa succede? Cioè che insomma io che non voglio usare questi soldi per investimenti futuri, quindi non sto facendo chiedendo soldi così a livello discrezionale, ho un calo del giro d'affari, questo ce l'hanno moltissime piccole imprese manifatturiere, anche artigiane, meno il mondo del commercio, ma alcune categorie. Ho un calo del mio giro d'affari. Che cosa mi succede in banca a quel punto? Mi succede che a volte vado in extrafido. Fino a qualche tempo fa questa pratica in qualche modo era tollerata, il direttore di banca chiudeva un occhio, ti chiamava, mi raccomando, entro breve tempo rientra nei termini. Adesso, soprattutto ad opera delle grandi banche, dove ci sono dei rating interni molto più diciamo duri nei confronti soprattutto di imprese che vengono considerate in qualche modo a rischio, non c'è più questa tolleranza e si richiede il rientro immediato. Questo significa che tu ti trovi ad aver bisogno di liquidità per evitare appunto di entrare nelle blacklist, per cui qualche assegno che hai nel frattempo fatto venga protestato e quindi trovarti fuori dal mercato. E quindi si fa di tutto per evitare, diciamo, questa catena. Allora, se ho ben capito, il mio giro d'affari cala, per cui il prestito che ho ottenuto dalla banca diventa un prestito di cattiva qualità. Se la banca ragiona diciamo, con i criteri di Basilea, con gli IAS, con il rating, il mio rating, il mio voto peggiora. A quel punto le banche, che prima avevano un po' più di margine, adesso sono concentrate sul recuperare tutti i crediti e stare attenti alle sofferenze, mi chiedono di rientrare, mentre non me l'avrebbero chiesto magari 3-4 anni fa. Chiedendomi di rientrare, perché il mio voto diventa un voto peggiore, chiedendomi di rientrare io mi trovo nella necessità di trovare questi soldi, scusate gioco di parole, e quindi portare i soldi che la banca mi chiede in seguito al prestito che ho ottenuto. Le chiedo, e a quel punto finisco nelle mani dell'usuraio. C'è qualche caratteristica di queste banche, non vogliamo nomi e cognomi per carità, ma insomma è proprio l'applicazione oggettiva, fredda, spersonalizzata dei criteri di rating che porta poi nelle mani dell'usura, o ci sono anche delle differenze nel mondo bancario per non fare di tutto un erbe un fascio, sempre sulla base delle segnalazioni che voi ricevete? Sì, noi abbiamo notato questo, che soprattutto i grandi gruppi bancari, quelli che probabilmente hanno situazioni, titoli tossici, adesso non lo so, comunque i grandi gruppi bancari che hanno un rapporto più impersonale con la clientela, molte volte con direttori che vengono da altre province, da altre città, che non conoscono il tessuto economico del territorio, hanno un atteggiamento, come dire, più matematico e non solo, stanno selezionando la loro clientela, in qualche modo cercando di emarginare i soggetti, fra virgolette, più a rischio. Diverso per le piccole banche, banche popolari, le banche, diciamo, più legate al territorio, che hanno un rapporto, posso dire, più umano, comunque più attento alla clientela, in cui a volte anche il nome di quell'impresa che sta in quella piccola provincia da 30 anni, da 40 anni, diciamo, è una garanzia di credibilità e di fiducia, e quindi c'è un atteggiamento meno opprimente e anche che dà la possibilità, diciamo, di superare i momenti di crisi. Se no, noi gettiamo questa gente appunto in mano agli usurai. Un'ultima domanda, visto che citavamo i dati della CGIA di Mestre, a voi risultano aree geografiche molto più colpite di altre dall'usura? I dati di Mestre probabilmente si basano sul dato delle denunce, che è qualcosa di diverso. Noi parliamo, in Italia purtroppo ci sono meno di 400 denunce l'anno per usura. Il dato nostro è un dato in cui l'usura è un fenomeno presente da Ragusa a Bolzano, con caratteristiche certo diversi sono soggetti più legati alla criminalità organizzata al sud, più soggetti fra virgolette professionisti in giacca e cravatta, società di servizi finanziari degenerati, grandi e grossi imprenditori che fanno questo tipo di attività nel centro e nel nord del paese. E aggiungo, perché l'ha detto in qualche modo anche il governatore della Banca d'Italia, attenzione, noi siamo di fronte a due usure oggi. C'è un'usura più tradizionale del cavattaro che lucra sugli interessi e che quindi non ti strozza fino in fondo, ma abbiamo un'usura più potente, in parte gestita dalla criminalità organizzata, che non mira a lucrare sugli interessi ma a impossessarsi della tua azienda, attività, dei tuoi certo, beni, certo, per poi entrare nel mercato. E ripulire, e ripulire i soldi, è chiaro, ha fatto bene a ricordarlo Presidente Busà, c'è lo strozzino classico che non ti strangola, non ti ammazza perché sennò viene meno la sua fonte di usura, ti tiene sempre lì in bilico tra la vita e la morte economica e imprenditoriale, e poi c'è invece la criminalità organizzata che ha interesse, e questo lo vediamo anche nell'Interland milanese, non si deve sempre solo pensare al sud, si pensi un po' anche all'asse pedemontano, che invece punta a rilevare la tua impresa, la tua attività, e quindi ti strangola, sì, in modo che tu debba gettare la spugna. Io ringrazio il presidente di SOS Impresa Lino Busà, il numero per gli interventi ve l'abbiamo dato, il numero verde 800 900 767, spero di aver detto correttamente presidente, per segnalare casi di usura. Una risposta prima delle informazioni sul traffico ai molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Non abbiamo detto che alla fine la colpa sia sempre delle banche, anzi lo stesso presidente di SOS Impresa ha ricordato come molte banche più presenti sul territorio, in cui i direttori hanno un rapporto familiare, aiutano questi imprenditori, così come è vero, cioè, un gruppo bancario può fare quello che vuole, se ha bisogno di rientrare metterà nuove regole per rientrare, se ha molte sofferenze da un'altra parte è legittimato nel chiedere il rientro di alcuni prestiti che ritiene più a rischio. Il dato di fatto però alla fine è che aumenta il tasso di persone che finiscono nella soglia di usura, da qualche parte il problema andrà preso. ...17:48, la borsa adesso con Paolo Paronetto. Vediamo, cerchiamo di rispondere anche a altri sms, non possiamo però dedicare tutta la puntata all'usura. Molti commenti mettono assieme i prestiti concessi a Zunino, i 3 miliardi più 1, e invece la difficoltà a concedere prestiti ad altri imprenditori, ma insomma nessuno vuole insegnare il mestiere alle banche, io dico solo attenzione, perché qui si stanno spingendo verso l'usura persone che prima, un anno fa, due anni fa, avevano invece molte più possibilità di vedere il proprio debito rinegoziato con un po' di attenzione, con un po' di comprensione. È inutile strangolare poi i clienti. Nessuno vuole insegnare niente a nessuno. La borsa più 1,6% FTSE MIB, più 1,4% FTSE All, Parigi più 2%, Francoforte più 2,5%, Londra più 1,5%, l'America il 2% adesso di rialzo. Buona la giornata, i motivi con Paolo Paronetto di Radio Cori, Sole 24 Ore. Paolo. Sì, buonasera. buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi la borsa è stata la nona seduta consecutiva di rialzi e gli listini hanno chiuso sui massimi della giornata grazie al traino proprio del rialzo messo a segno da Wall Street. Come ricordavi tu, la piazza newyorkese è in rialzo di circa il 2%, trainata dalla nuova ondata positiva di conti trimestrali e anche dei dati macroeconomici. In particolare nel pomeriggio è uscito un dato sulle vendite di case esistenti che è risultato migliore delle attese e quindi ha alimentato l'ottimismo sull'andamento del comparto immobiliare e quindi dell'intera economia. Tutti gli stimoli europei ne hanno beneficiato, chiudendo, come dicevamo, la nona seduta consecutiva di rialzo. La nona di fila e tra l'altro, dato del mercato immobiliare americano, altri elementi congiunturali negli ultimi giorni stanno portando la borsa, dico chi l'avrebbe mai detto, a non avere il fly to quality né il fly to holiday, ma continuare progressi anche a fine luglio, quando di solito invece sappiamo che ogni tanto la borsa corregge. Andiamo sui titoli. La migliore: Saipem più 4,7, Banca Popolare più 4,1, Mediolanum più 2,8 come UbiBanca e Impregilo. Il 2,6 lo guadagna Fondiaria, Sai, ma anche Tenaris. Il 2,3 rialzo di Enel e Pirelli, ma anche di Unicredito. Il 2,1 quello della Popolare di Milano e di Intesa San Paolo. Il 2% l'ha guadagnato Unipol, ma anche CIR e Parmalat. Chi ha perso oggi sul mercato? Vabbè, vi do anche Finmeccanica più 1,7, Alleanza più 1,6, Lottomatica 1,5 come Buzzi Unicem e Generali e Campari. Chi ha perso, dicevamo, poca roba: Esti Microelectronics meno 1,8, Atlantia meno 0,7, Fiat meno 0,4%, euro vicino a quota 1,43 sul dollaro. Sarà una buona notizia per chi va in area dollaro in vacanza. I titoli: Saipem. Saipem è stata la protagonista della seduta fin da questa mattina, ha registrato consistenti rialzi chiudendo a più 4,77% al traino della concorrente francese Technip. La borsa di Parigi, Technip, ha chiuso con un rialzo superiore ai 10 punti percentuali dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre. I risultati sono stati migliori delle attese per Technip, con un aumento dell'utile netto nel semestre di oltre l'11%, e conti che hanno spinto i vertici della società a correggere al rialzo le previsioni sull'intero esercizio, che adesso sono nella parte alta della forchetta indicata in precedenza, e quindi ovviamente hanno spinto al rialzo l'intero comparto, in particolare Saipem, che ha guidato le blue chip milanesi. Questo per quello che riguarda Saipem. Ansaldo ha beneficiato, anche se devo dire meno di ieri, della commessa libica. Ieri aveva fatto proprio il botto in borsa. Banco Popolare più 4,1%, novità? No, sul Banco Popolare non ci sono novità. Tutto il comparto bancario oggi, approfittando dell'ottimismo generale, come ricordiamo spesso, il comparto finanziario essendo stato il più colpito dalla sfiducia, è anche quello che beneficia di più spesso quando sui mercati prevale un clima positivo. Oggi a livello europeo ha guadagnato il 3,3% e anche a Milano tutti i principali titoli bancari sono stati nelle parti alte del listino. Come ricordavi, Unicredit ha guadagnato oltre il 2, così anche Intesa, mentre il Banco Popolare e UbiBanca hanno guadagnato rispettivamente il 4 e il 3% circa. Allora, volete sapere di Esti Microelectronics? Vabbè, i conti in rosso della joint venture che gruppa con Ericsson mi sembra che abbiano pesato, Paolo, visto che siamo in conclusione del collegamento, meno 1,8%. Sì, esattamente, il tema di seduta per ST oggi è stato quello. Sono stati diffusi i conti del secondo trimestre della joint venture con Ericsson. In realtà è il primo trimestre di piena operatività della joint venture, certo, che ha perso 165 milioni contro un rosso pro forma di 69 milioni nel secondo trimestre del 2008, dati più o meno in linea rispetto alle attese, ma un po' peggio delle previsioni per quanto riguarda i margini. Risanamento: Zunino meno 3,8%, o meno Zunino è fuori, ma insomma il titolo esiste, meno 3,8%. Invece sul fronte opposto Italease ha guadagnato il 7%, il migliore in assoluto Indesit Company più 7,80, il peggiore Cell Therapeutics meno 7,35%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Avete ragione, hanno ragione, immagino i direttori di banca, di filiale bancaria che scrivono, attenzione, vi dimenticate di dire che il direttore di filiale sul territorio spesso non ha una grande autonomia perché deve eseguire quelle che sono le linee guida della casa madre. Avete ragione, però non è che possiamo sempre spostare il problema da qualche altra parte. Insomma, il dato di fatto è quello che ricordavamo sull'usura, che ricordavamo che ha lanciato come monito il governatore della Banca d'Italia ieri in commissione antimafia, non un dettaglio. Comunque, ultimo tema di questa puntata, la situazione su Maier. Devo dire che qualcosa si sta muovendo, perché dopo che l'ENAC ha comunicato la sospensione della licenza alla compagnia low cost Maier e che scatterà come decisione dalla mezzanotte di oggi, i motivi, i gravi di servizi e poi c'era anche la mancanza dei pagamenti all'ENAC, la compagnia che è nata nell'autunno del 2004 sulle ceneri della fallita Volare, evidentemente non porta bene, per iniziativa dell'ex pilota delle Frecce Tricolori Vincenzo Soddu, che aveva fondato e portato al fallimento, non voglio dire nulla, ma sono andati di fatto un'altra compagnia, l'Alp Eagles, commissariata nel 2008, controllata da Luca e Arianna Soddu, Maier, figli di Vincenzo. C'è una catena un po' complessa, la Fly Holding controlla My Holding, che a sua volta controlla My Way, che controlla Maier, ma qua sono tutti a terra, indipendentemente da chi controlla. Meridiana si è messa in moto, ha annunciato di riproteggere, di aver avviato procedure di riprotezione per alcune centinaia di passeggeri che negli ultimi due giorni hanno avuto problemi negli scali di Olbia e Cagliari. Ha anche annunciato che su richiesta dell'ENAC attiverà una rotta Venezia, dall'aeroporto di Venezia per Catania dal prossimo 7 agosto. L'Alitalia ha attivato tariffe agevolate dedicate ai passeggeri che dovessero subire disagi provocati appunto dalla cancellazione dei voli nei giorni 23, 24 e 25 luglio. E ascoltiamo, per quello che riguarda anche la spiegazione arrivata oggi da Carlo Pilieri, presidente dell'Associazione Consumatori, a Salvadanaio, che cosa possono fare i clienti di Maier. Quando ci sono questi casi ci sta un regolamento comunitario che prevede che nel caso di cancellazione del volo, per qualunque causa che non sia dovuta a circostanze eccezionali, il passeggero ha diritto di scegliere o la riprotezione, ossia di viaggiare con un altro aereo che viene messo a disposizione dalla compagnia che non può effettuare il volo, o a ottenere il rimborso totale del biglietto senza penali, ed è previsto pure un rimborso a compensazione del danno subito, che è di circa 250 euro per le tratte fino a 1500 chilometri, aumenta per le tratte superiori. Quindi si può chiedere alla Maier il rimborso del biglietto e la compensazione. Nel caso in cui ci siano problemi nell'ottenerlo, ci si può rivolgere a un avvocato o un'associazione dei consumatori come l'ADOC, che potrà fornire assistenza perché venga garantito questo diritto che è del viaggiatore. E allora in bocca al lupo ai clienti di Maier, una buona settimana e una buona serata soprattutto da Sebastiano Berisoni e agli ascoltatori di Focus Economia, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.